Città Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivelli. Ciao a tutti, Nevio al microfono. Siamo nel mese di luglio, caldissimo anche qui negli studi di Radio Città Fujiko. State ascoltando sui 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica da Bologna e tramite l'apposita app che potete scaricare gratuitamente dal nostro sito radiocittafujiko.it. Potete, dicevo, ascoltare anche la radio tramite il web in tutte le parti del globo terracqueo, come ebbe a dire la nostra amata prima Presidente del Consiglio. Città Fujiko Live Club è la trasmissione che ogni mercoledì dalle 10.30 in poi vi fa ascoltare musica dal vivo registrata in ogni dove e in ogni epoca e che passa in rassegna buona parte dello spettro musicale mondiale e nazionale. E Città Fujiko Live Club inizia come sempre anche con la stagione estiva con una novità, e oggi abbiamo in scena un personaggio che credo dalle nostre parti non sia molto conosciuto. È un giovane, fra parentesi, infatti ha solamente 31 anni, che per un certo tipo di musica, che è quella che ci andremo ad ascoltare, che si chiama Bluegrass, è veramente molto poco. Comunque il personaggio in questione si chiama William Lee Apostle, viene da Lansing, Michigan, ma musicalmente parlando si fa chiamare Billy Strings. Il bluegrass è una musica che è popolarissima negli Stati Uniti, un po' meno qua in Italia, dove però so per certo che è uno zoccolo duro di estimatori, ed è una branca, diciamo così, della country music americana. È suonata con prevalentemente, anzi solamente oserei dire, con strumenti a corda e spesso senza percussioni di sorta, sono chitarre, mandolini, banjo e contrabbassi. La band infatti di Billy Strings, che è a nome suo, consta di 5 strumentisti che suonano appunto, come vi dicevo, la chitarra acustica, il banjo, il violino, il basso e il mandolino. Billy Strings ha avuto una vita molto molto tribolata. Suo primo padre, il suo padre naturale per meglio dire, morì di overdose quando lui aveva 2 anni, e suo padre adottivo e sua madre naturale ebbero dei grossissimi problemi di droga, ma anche lui naturalmente non poteva esimersi da questi problemi. Quando però i suoi genitori, padre adottivo e madre naturale, si disintossicarono, anche lui entrò in rehab, come si suol dire, e adesso è pulito oramai da diverso tempo. Lui ha fatto 3 album in studio che hanno avuto un successo strepitoso e che lo hanno portato appunto nel gotha della musica bluegrass e country americana. E il 4º album, che è quello che ci andremo ad ascoltare oggi, è un live. È un doppio CD che è stato registrato in diverse parti degli Stati Uniti e chiaramente in diverse serate. Il primo pezzo che vi faccio ascoltare, col quale apro questa trasmissione, è un pezzo molto lungo, perché Billy Strings è un incrocio, diciamo così, fra la musica bluegrass e la musica jam. Ha pezzi molto lunghi con tante improvvisazioni, e questo che vi faccio ascoltare, che si chiama Heartbeat of America, è un esempio lampante di quella cosa che malamente ho cercato di spiegarvi. È stato registrato al Ryman Auditorium di Nashville e il 25 febbraio del 2024, quindi è freschissimo. Lui si chiama Billy Strings. Thank you. Si chiama Heartbeat of America, il brano che vi ho proposto, e l'ho scelto appositamente perché rappresenta perfettamente l'ibrido musicale che sta proponendo Billy Strings. Inserire la chitarra elettrica nel bluegrass è per molti puristi del bluegrass un peccato, addirittura un abominio. Invece lui ha fatto questa cosa, ha allungato di molto i brani, insomma è una delle novità di questi ultimi anni nel campo del bluegrass, lo sta veramente trasformando e ha un successo strepitoso. Il tutto arriva dall'album live che vi propongo quest'oggi, che si chiama Live Volume 1. Speriamo che arrivi anche il volume 2 non fra molto, perché è un album molto molto interessante, molto bello, e questo brano è stato registrato il 25 febbraio scorso, siamo nel 2004, è fresco fresco. Come vi dicevo, questo brano è stato registrato al Ryman Auditorium, che è un locale storico per quel che riguarda gli Stati Uniti. È stato aperto nel 1892, è stato costruito da Thomas Ryman, appunto, come Union Gospel Tabernacle, era una chiesa in pratica. Ma nel 1904, quando Ryman morì, i fedeli di questa chiesa chiamarono appunto il locale Ryman Auditorium. Presto questo Ryman divenne un teatro di varietà e di musica. E dal 1963 al 1974 è stata la sede del Grand Ole Opry House, che è un programma di radiofonico di country di grandissimo successo, trasmesso in tutti gli Stati Uniti. E guarda caso, il Ryman Auditorium è considerato il luogo di nascita della musica bluegrass. Ci stanno 2.362 persone nell'ultima versione, quella dopo vari rifacimenti e vari lavori di ristrutturazione. Naturalmente avrete già capito che ci ascolteremo, per meglio dire, in questa prima parte della trasmissione, le registrazioni effettuate in questo locale storico, Ryman Auditorium, ad iniziare da una gentil donzella che è molto brava e che ha fatto diversi album dal vivo. Lei viene da Kennedy nel Missouri, per anni è stata una backing vocalist, quelle ragazze che stanno dietro alla star della serata. Lei ha lavorato anche con Michael Jackson fra gli altri, però il suo primo album solo, che è del 1993, gennaio 1993, ebbe un successo strepitoso anche con il brano che ci andremo ad ascoltare adesso. Ha fatto 3 live album, questo che si chiama Live from Ryman and More è stato registrato nel locale appunto il 23 settembre del 2019. Il pezzo per voi, come vi dicevo, che ho scelto per voi è uno dei più famosi, se non il più famoso, di Sheryl Crow. Il brano si chiama Living Las Vegas. Single of my first record. This came out in 94 and it went straight up the charts to number 58. Life springs eternal on a gaudy neon street that I carry on. Spent the best part of my to Barstow for the night. Finds to crush her traffic that demonstrates my. Dealing blackjack until 1 or 2. Such a muddy line between the things you want. Dancing to the music, 8 years dancing with a girl I love,

some wheels climbing back. Heaven's waiting down the long track. Oh, come take my hand. We're riding out tonight to case the promised land. Viene da Memphis, Tennessee, la rivale musicale di Nashville, e però si è trasferito molto presto. Drew Holcomb, sto parlando di lui, insieme ai suoi Neighbors, si è trasferito molto presto in quel di Nashville, e quindi non dico che suoni spesso a Ryman, ma suona spesso a Ryman. Comunque è una ottima band, un ottimo musicista, un ottimo cantante. Avete sentito questo brano che si chiama Shine Like Lightning, che contiene nel finale questa particolare versione di Thunder Road di Bruce Springsteen, che naturalmente non può competere con l'originale, ma è sicuramente sempre un grande piacere ascoltare. Il tutto è stato registrato per questo album che si chiama Live at the Ryman, non molto originale direi, il 28 febbraio del 2015. Here we go, it won't be the last time. Personaggio molto conosciuto, molto apprezzato, Ben Harper, ha una carriera che inizia oramai da tantissimi anni, esattamente dal 1995 insieme agli Innocent Criminals, che poi per un certo periodo ha abbandonato e poi ha riformato. E lui è un grande personaggio, suona la chitarra in un modo particolare, steso sulle ginocchia, una Washburn, un tipo di chitarra particolare, e insieme ai suoi Innocent Criminals ha fatto un sacco di album in studio e tantissimi, ma tantissimi veramente, singoli con brani registrati dal vivo da solo o insieme appunto agli Innocent Criminals. Comunque uno di questi è un singolo che si chiama Steal My Kisses, il tipico brano in studio che prelude a due brani registrati dal vivo come retro, diciamo così, anche se in realtà si tratta di un CD single. L'ultimo pezzo è quello che ci interessa, è stato registrato all'Auditorium, al Ryman Auditorium, il 12 novembre del 1999, e si chiama proprio Steal My Kiss, Ben Harper and the Innocent Criminals, molto molto molto tranquilli. Don't you get ahead of me, and I won't leave you behind. If you get unhappy, you got to show me a sign. 'Cause there's no love like lost love, and no pain like a broken heart. There's no love like you and me, and no loss like us apart. Promises, promises, only a word. And when softly spoken, is never heard. And a heart is not a stone. And is so fragile, so fragile when alone. By my side, won't you be by my side? By my side, by my side, won't you be by my side? Thank you. her sky. It's over, under, up above, down below, to the side. There's no use in pretending, no use in saving face. For my love is never ending, Lord, you are my saving grace. By my side, by my side, won't you be by my side? By my side, by my side, won't you be by my side? Won't you be by my side? Won't you be by my side? By my side, won't you be by my side? Texas, but I made my way from Dallas, and I know the lonesome sound is following. And I ain't a gambler, but I can recognize a hand and when to hold when queens are staring back at me. I could swing a metal mallet sure and straight. But I took to the highway, a poet young and hungry, and I left the timbers rotting where they lay. And when the black cloak drags upon the ground, I'll be ready to surrender and remember, well, we're all in this together. If I live the life I'm given, I won't be scared to die. And I don't come from Detroit, but her diesel motors pulled me, and I followed till I finally lost my way. And now I spend my days in search of a woman we call purpose, and if I ever pass back through her town, I'd stay. Given, I won't be scared to die. coin is pulled from an empty pocket. It's dropped into a slot with dreams, the sevens close behind. And hopes and fears go with it, and the moon and the sun go spinning like the numbers and the fruits before our eyes. Sometimes I hear, sometimes it robs me blind. Sometimes I hear, sometimes it robs me blind. Come on, Sam. Forever I will move like the world that turns beneath me. And when I lose my direction, I look up to the sky. Dragged upon the ground, I'll be ready to surrender and remember, well, we're all in this together. If I live the life I'm given, I won't be scared to die. Fratelli Yevet, vale a dire Seth, che canta e suona un sacco di strumenti di tutti i generi, e Scott, anche lui canta e anche lui suona un sacco di strumenti di ogni genere, partirono come Avett Brothers nell'anno 2000 e poi hanno aumentato la formazione, sono adesso diventati un quartetto stabile più un paio di musicisti che suonano con loro durante i concerti dal vivo, ma mantengono il nome di Avett Brothers. Hanno fatto diversi album in studio e 4 album live. Questo però non appartiene a uno degli album, è una cosa un po' particolare. Nel 1974 cominciò a uscire un magazine negli Stati Uniti, sto parlando, che si chiama Relix, che era principalmente votato all'osannamento, diciamo così, dei Grateful Dead, e nel corso degli anni poi ha ampliato il suo range musicale, però non ha dismesso l'abitudine di includere in ogni numero, che è praticamente un bimestrale, un CD con un'antologia dei gruppi che sono rappresentati, che sono scritti in ogni numero del magazine. E in questo caso appunto abbiamo una registrazione live degli Avett Brothers, che è stata registrata a Ryman Auditorium, sempre a Nashville naturalmente, il 13 ottobre del 2011, e si chiama Once and Future Carpenter. Vengono da Seattle, si chiamano Band of Horses, li vedemmo anche qualche anno fa, ormai diversi anni fa, qui a Bologna all'Estragon. È una buona band, anche se secondo me è molto sopravvalutata, ma ha fatto 2 album live che si chiamano entrambi Acoustic at the Ryman, che naturalmente sono volume 1 e volume 2. Il primo volume uscì ormai diversi anni fa, il secondo è uscito qualche mese fa, ma io non riesco proprio a trovarlo, ma questo è un altro discorso che a voi non interessa. A voi interessa che adesso ci andiamo ad ascoltare il brano di punta della loro produzione. Il tutto è stato registrato il 27 di aprile del 2013 al Ryman Auditorium naturalmente. Il pezzo non ha un nome molto allegro, si chiama The Funeral. Loro sono Band of Horses. But do you know you is high? I'm coming up only to show you downfall. I'm coming up only to show you wrong. E questi sono i cuginetti di Billy Strings, che vi ricordo è il titolare della novità che vi propongo quest'oggi e che sentiremo più tardi, fra un po', fra qualche minuto, in apertura di seconda parte di trasmissione. Old Crown Medicine Show si chiama questa band, che viene da Nashville, anche se loro arrivano da un po' tutto il mondo, da tutti gli Stati Uniti per meglio dire, e hanno fatto 4 album live, uno più bello dell'altro nel genere, se vi piace il genere, e uno fra l'altro è il rifacimento in toto di Blonde on Blonde di Bob Dylan. Questo invece si chiama Live at the Ryman, l'album è anche questo molto originale. Non è dato sapere né quando né dove è stato registrato, ma loro suonano spessissimo al Ryman, per cui sicuramente sono date diverse in tempi diversi. Il brano che ci siamo ascoltati si chiama Shout Mountain Music. Loro erano Old Crown Medicine Show. Now one of these days I wake up tired of the life I'm living and feel inspired to get off my ass, to get off my ass and be on my way. One of these days I wake up steady and ready to go like Richard Petty. I'm gonna wake up and I'm change gonna my wake place up one of these days. One of these days, one of these days I'm gonna find me a better way to live my life. To live my life and carry on. I know it won't come easy, but believe me when I say I'm gonna wake up and I'm change my wake ways up one of these days. One of these days I'm coming up to it, gonna put my foot right down and do it. It's about damn time. It's about damn time. I made a change. I made a change. One of these days I'm bound for glory, and that's the moral of this whole story. I'm gonna wake up and I'm change my ways one of these days. One of these days, one of these days, I'm gonna find me a better way to live my life, to live my life, and carry on without the strife. I know it won't come easy, but believe me when I say I'm gonna wake up and I'm change gonna my wake ways up one of these days. One of these days, one of these days, I'm gonna find me a better way to live. I'm gonna wake up and I'm change my ways one of these days. I'm gonna wake up and I'm change my ways one of these days. Seconda parte di Città Fujiko Live Club, che va in onda ogni mercoledì dalle 10.30 alle 12.25 sui 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica da Bologna. Seconda parte di Città Fujiko Live Club, che è iniziata con la novità che vi propongo quest'oggi. In realtà questo è il brano conclusivo della novità, che si chiama Live Volume 1, da parte di Billy Strings, giovane musicista bluegrass americano che sta andando veramente alla grande, sempre presso un certo tipo di pubblico. E vi ho già parlato di questo genere musicale, può piacere o non piacere, ma negli Stati Uniti va per la maggiore. Come dicevo, l'album si chiama Live Volume 1 e comprende brani registrati qua e là per gli Stati Uniti. Questo in particolare, che si chiama Richard Petty, è stato registrato allo State Farm Arena di Atlanta, Georgia, il primo marzo scorso 2024, quindi, come ho già detto per il brano che vi ho fatto ascoltare nella prima parte, è tutta roba freschissima. Meno fresco invece ciò che arriva di solito in Record Today, anche perché cominciamo sempre in anni molto molto lontani, perché ci sono tantissime cose registrate in questa giornata che il criterio di scelta è un brano per ogni decade. E quest'oggi cominciamo con Van Morrison dal 1973. Van Morrison è sicuramente uno dei grandissimi della nostra musica. Per i pochi che non lo sanno, viene da Belfast, Irlanda del Nord, iniziò la propria carriera con gli Zem dal 1964 al 66, successo stratosferico mondiale con Gloria. Sono loro gli autori e gli esecutori primi di questo grande successo internazionale. Il suo primo album solista risale al 67, ma è nel 68 con Astral Weeks che gli arrivò la fama mondiale. Qui abbiamo un album live, naturalmente, che si chiama It's Too Late to Stop Now. Uscì originariamente come due long play nel febbraio del 1974, con tre registrazioni diverse, Los Angeles, Santa Monica e Londra, e poi in tempi più recenti, nel 2016, giugno 2016, è uscito un triplo CD più DVD che si chiama Volumes 2, Volumes 3, Volumes 4 and DVD, e comprende i concerti integrali da cui erano stati tratti i due long play originali. Una cosa molto corposa, molto molto molto bella. Dal volume quarto, che è stato registrato al Rainbow di Londra il 24 luglio del 1973, ci andiamo ad ascoltare Caravan, Mr. Van Morrison. All of my friends are. And they'll stay with me until the end. Gypsy, gypsy, gypsy, gypsy, Robin, a sweet Amaro. Tell me everything I need to know. Turn up your radio. Then let me hear the song. Switch on your electric light. Then we can get down to what is really wrong, really wrong, really wrong, really wrong, really wrong. That's enough, so you know it's got soul. Ah, yeah, yeah. Da, da, da, da, da. Switch on your electric light. Then we can get down on our hands and knees and find out what's really wrong, really wrong, really wrong. So you know, it's got soul. so you know it's got soul, man. So you know it's got soul. So you know it's got. Da-na-na-na-na. So you know it's got. What kind of soul? Nathan Rubin on violin. Rest of the Caledonia Soul Orchestra, we have Terry Adams on cello. Nancy Ellis on viola. Tim Kovacs on violin. We have the one and only Jeffrey Labus on piano, organ. Brother Jack Chor on saxophones. John Patania on guitar. Mr. David Hayes on bass. David Shaw on drums. Bill Atwood on trumpet. So you know it's got soul. So you know it's got none of its soul. Of the Caledonia Soul Orchestra. Thank you. Un album memorabile già di suo, It's Too Late to Stop Now, il volume originale, ma questo triplo volume 2, 3, 4 and DVD, che poi diventa 4 appunto con il DVD, è assolutamente imperdibile. Il brano che ci siamo ascoltati si chiama Caravan, brano conclusivo del concerto, ma poi arriva il bis che sentirete sottofondo. Il tutto è stato registrato al Rainbow di Londra il 24 luglio del 1973 insieme alla Caledonian Soul Orchestra, come avete sentito, e che è stato uno degli album live più belli di Van Morrison. Fra l'altro ne uscirà uno in agosto, credo, e quello non scappa sicuramente, ve lo farò ascoltare. And I'm cocking in a car seat A rappresentare gli anni 80 arriva il miglior gruppo italiano di sempre, per quel che mi riguarda. Si chiama tuttora premiata Forneria Marconi, ma il titolo di miglior gruppo italiano, per quel che mi riguarda, l'ha effettivamente meritato negli anni 70, dopo è andato un po' in calare. Qui siamo nel 1981 e il calo è già abbastanza evidente. Dopo l'esperienza americana, loro sono rintanati qua in Italia e sempre ad altissimo livello. Non sto dicendo che sono scarsi, anzi, tuttora sono grandissimi, anche se l'unico membro originale è rimasto Franz Di Cioccio, batterista e cantante, anzi cantante e batterista, però gli anni migliori sono sicuramente quelli degli anni 70 con i tour negli Stati Uniti. Un quadruplo CD molto molto molto bello, che consiglio caldamente a tutti, si chiama 10 anni live 1971-1981, come dice naturalmente il titolo è stato registrato in diverse epoche e in diverse città. Qui siamo al Teatro Tenda di Firenze il 24 luglio del 1981. Il pezzo che ho scelto per voi si chiama Suonare, premiata Forneria Marconi. Stasera a casa, a che fare? Quello che ciondola, ma non gli va di restare. Leggo un giornale, sempre vuoi. Che mi fanno quasi male, a forza di vedere fuori sempre gli stessi colori. Qui per sognare mi tocca dormire, o come sempre suonare, suonare. Stringo fra i denti, come ero ieri, ma perché poi dovrei dimenticare quel gioco d'un tremare. No, no, non ci sto, salvo suonando te, mi porta via, via, via, e allora sì, torno a girare qua, dove c'è musica. Vai a passeggio su un prato senza fiato, lei che mi aveva avvertito, ma io non le ho creduto. Qui per sognare tocca dormire, o come sempre suonare, suonare. Firenze, 24 luglio 1981, Teatro Tenda, premiata Forneria Marconi. Il brano si chiama Suonare Suonare e fa parte, lo ripeto per consiglio per gli acquisti, di questo album, questo quadruplo cofanetto che si chiama 10 anni live 1971-1981. Una delle migliori band americane in assoluto per quel che mi riguarda, visto che sono sempre io che scelgo le cose, e è attiva dal 1985, from Los Angeles, e anche se hanno avuto diverse interruzioni perché Perry Farrell, il cantante, e Dave Navarro, il chitarrista, sono due tipi da prendere con le molle e quindi spesso non sono d'accordo, diciamo così, sul da fare, e sciolgono la band. Comunque loro sono ancora vivi e vegeti, anzi stanno avendo un rinnovato successo negli Stati Uniti. Perry Farrell, il cantante, è colui che ha inventato il Lollapalooza Festival, che partì come festival itinerante attraverso gli Stati Uniti, ma qualche anno dopo si è stabilito in quel di Chicago. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è appunto tratto dal primo Lollapalooza Festival, viene dal 24 luglio del 1991 ed è tratto da una raccolta che si chiama Kettle Whistle, che è stata pubblicata nel 97. Il brano è un super classico di Jane's Addiction, manco a dirlo, secondo me bellissimo. Si chiama Jane Says. Thank you very much. We'll be right back. Uno dei più grandi sassofonisti della storia della musica jazz e non solo jazz, Wayne Shorter from Newark, New Jersey, purtroppo ci ha lasciato oramai qualche anno fa. Ho detto non solo jazz perché Wayne Shorter, eccellente sassofonista, come avete potuto sentire, oltre a suonare con Miles Ferguson, con Art Blakey, con Herbie Hancock, con Miles Davis, ha anche suonato con Joni Mitchell in un paio di album che sono stati veramente una favola. Però la sua fama mondiale chiaramente deriva dai Weather Report, altra band assolutamente grandissima. Qui abbiamo un album che si chiama Footprints Live, e è stato registrato anche questo in diverse occasioni, questa in particolare il 24 luglio del 2001 al Jardin Palais de la Champs, forse il mio francese è veramente molto maccheronico, è tutto però a Marsiglia, e il pezzo che ci siamo ascoltati si chiama Atlantis. Torniamo a cose più canoniche rispetto alla mia trasmissione, e arriviamo al 24 luglio del 2011. Siamo a Londra, a Victoria Park, che è stata sede per 2 anni di un festival prog molto interessante. Si chiamava High Voltage, poi con la pandemia la terza edizione non si tenne e dopodiché è scomparso nel nulla. Però intanto hanno fatto in tempo alcune band a registrare qualcosa anche tramite questa casa discografica che si chiamava Concert Live, e che anche questa è andata un po' a carte 48 in seguito alla pandemia. Comunque loro sono Palace, è una band che arriva da Aberdeen in Scozia ed è attiva dal 1976. Anche qui abbiamo un solo membro originale da quell'anno, che si chiama Graham Murray, che è il bassista. Era uno dei gruppi di punta della cosiddetta second wave of the British prog rock, in tutto negli anni 80, la seconda ondata del prog rock degli anni 80. Ci andiamo ad ascoltare questa registrazione, appunto, che fa parte di High Voltage, questa insieme di registrazioni effettuate nell'omonimo festival a Londra il 24 luglio del 2011. Il pezzo che ci andiamo ad ascoltare si chiama Arrive Alive, come uno dei loro album più noti e più conosciuti. Thank you very much. Do you know who we are? Who are we? We'll be right back. Brano finale della loro apparizione al Live Voltage Festival del 2011, l'ultimo che si è tenuto, e prima ho detto che era stato interrotto dalla pandemia, ma questo non è assolutamente vero, siamo 10 anni prima, ci sono stati dei problemi economici e per cui il tutto si è interrotto, c'era qualcosa che non mi funzionava. Comunque loro, come ho detto prima, erano i Palace, questa band neo-progressive, anche se oramai è old progressive. Il tutto registrato al Victoria Park di Londra il 24 luglio del 2011 e il brano si chiama Arrive Alive. Questo concludeva Record Today di oggi. A concludere invece Città Fujiko Live Club ci penso alla novità che vi ho proposto quest'oggi, Billy Strings, molto velocemente perché come sempre il tempo sta stringendo. Billy Strings che ci andiamo ad ascoltare con un pezzo che si chiama Long Forgotten Dream dal suo primo album live, infatti si chiama Live Volume 1. Vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento mercoledì prossimo, sempre 103.1 MHz, sempre sul web radiocittafujiko.it e naturalmente sempre con Città Fujiko Live Club. Ciao a tutti da Nevio, Billy Strings. Would you listen when the wind decides to whisper English fade? Will you heed the words within the winds that whisper it's too late? Would you say it's too late. Have you felt the atmospheric friction churning up above? All the traits and descriptions seem to fit just like a glove. Can you see us scratching back through the seams? Crawling circles on our back with our dumbfounded expertise. Just the thought of this is riddled with disease. Of this song, would you like to tag along with us? I know it won't be long. Could she take us back to somewhere you desire? Could she lead us to the doorway? Would you sit down by the fire? Would your eyes be sealed with love instead of hate? Can you hear the empty chambers of your head begin to spin? All the living skin. Did you settle for the empty space within? Or just kick and scream for something else to carry your thoughts in? One foot before the other, let's begin. Would you listen for the echo?